in due. La notte che cadeva giù, un passo falso, un salto nel blu. Ma non tornerò mai più. Le luci accese sul nostro show, mentre ballavi gridavi no. Il ritmo batte ma io non lo so, che non tornerò mai più. Mai più, mai più. La forbice negativa taglia i fili della mia vita. Mai più, mai più. La stessa ferita, questa danza è la mia sfida. Il tamburo chiama, sento il calore, un fuoco acceso dentro il cuore. Mi muovo libera fuori dal dolore, non c'è spazio per l'errore. Sulle note la mia libertà, un giro ancora e poi chissà. Lasciami andare, non toccare.